بسم الله الرحمن الرحيم Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Questo CD ha per oggetto il rito di adorazione nell'Islam. Prima di dare inizio alla spiegazione di ciò che è necessario sapere e saper fare in relazione al rito di adorazione da parte di chi intenda entrare nell'Islam, ho ritenuto necessario fare alcune precisazioni come segue. Il primo pilastro dell'Islam è la testimonianza. Dopo avere avuto la certezza della verità della provenienza divina del sublime Corano e della missione profetica di Muhammad, che Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, è uno, unico e unipersonale, e che Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, è veramente apostolo di Allah. Queste certezze fanno di chi le ha raggiunte un credente a livello privato, mu'min. E per avere le certezze, cioè per diventare credente, e non lo si diventa se non con il permesso di Allah, per raggiungerle bisogna conoscere il Corano e l'insegnamento del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, avere, anche se in embrione, la visione del mondo della dottrina islamica e già, in quanto credente, mettere in pratica il rito di adorazione, perché lui ha letto nel Corano o gli è stato insegnato che Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, ha detto: il rito dell'adorazione è per il credente mu'min un obbligo da adempiere in tempi stabiliti. Nelle tradizioni, dopo aver riportato il detto del profeta relativo al rito d'adorazione, eseguite il rito dell'adorazione come avete visto farlo a me, sono esposte in dettaglio le modalità con le quali il profeta sallallahu alaihi wasallam ha eseguito il rito di adorazione nei diversi tempi dell'arco diurno e notturno del giorno indicati da Allah nel sublime Corano. La comunità islamica è una comunità di adorazione che ha proprio nel rito dell'adorazione la sua caratteristica identitaria, come ha insegnato il profeta sallallahu alaihi wasallam. Ciò che ci distingue dagli altri è il rito dell'adorazione, e ancora l'abbandono del rito di adorazione è fuoriuscita dall'Islam. Il rito dell'adorazione è paragonato al paletto centrale della tenda, senza la presenza del quale la tenda non svolge la sua funzione, e questo è il primo articolo che sarà esaminato nel giorno del giudizio. L'amore per Allah e per il profeta è un sentimento che nasce dalla presa di coscienza di chi è Allah e di chi è il profeta sallallahu alaihi wasallam, e questo amore si manifesta nell'obbedienza ai comandamenti del Corano e ai precetti del profeta, perché non può andare per i fatti suoi uno che abbia capito il significato delle parole dette da Allah nel sublime Corano, quando dice: non è più lecito a un credente e a una credente, dopo che Allah e il suo apostolo hanno stabilito una regola di condotta, fare di testa propria, cioè diversamente da come è stato ordinato nella materia regolata. È per questo amore che il credente si sforza di obbedire ai comandamenti divini e ai precetti profetici rispondendo «Abbiamo udito e obbediamo». E il fatto che il rito dell'adorazione sia stato prescritto nell'anno 13 dall'inizio della rivelazione non ha assolutamente valore per fondare l'idea che basta che il testimone faccia la testimonianza verbale e poi la salat, il rito d'adorazione, venga da sé con il tempo, come pare, ma non è sicuro, che abbia insegnato un professore universitario di islamologia di un paese sull'altra sponda del Mediterraneo. Adesso viviamo in un tempo successivo alla dichiarazione fatta da Allah dopo il discorso del profeta durante il pellegrinaggio dell'addio: oggi ho reso perfetto il sistema di vita che dovete mettere in pratica, compiacendomi di darvi come sistema di vita l'Islam, espressione della mia completa grazia su di voi. L'accettazione come veritiera di quella asserzione, che è oggettivamente infondata, dovrebbe permettere al professante la sua fede, abituato a mangiare prosciutti e mortadelle di origine suina e di bere sangiovese e champagne, di allontanarsi gradualmente da tali pratiche alimentari, dato che i primi musulmani, almeno per quanto riguarda le bevande alcoliche, non cessarono di bere fino a quando non venne la proibizione del consumo di bevande alcoliche, come si deduce dal fatto che nel Corano c'è la prescrizione di non pregare in stato di ubriachezza. Già da prima della professione di fede che lo fa entrare ufficialmente nella comunità islamica e in grazia della quale egli acquista i diritti riconosciutigli dall'Islam e si impegna a osservare ufficialmente gli obblighi che da essa derivano, il testimone si veste come Allah comanda, mangia come e cosa Allah comanda, esegue il rito di adorazione come Allah comanda, digiuna come Allah comanda, perché la testimonianza è la formalizzazione di una realtà esistenziale già in atto, non ha valore costitutivo, ma valore dichiarativo. La testimonianza è la pubblicazione del proprio Islam come linea di condotta nel mondo esteriore e non della propria credenza. Professione di fede significa traduzione in pratica della fede. Infatti, nel famoso insegnamento del profeta, la fede non è un desiderio, ma ciò che se esiste nel cuore si manifesta nell'azione. Per questo la testimonianza deve raccontare una realtà già esistente nella vita del testimone. L'obbedienza alla parola di Allah, quantomeno ai precetti distintivi dell'Islam, con esclusione di obbedienza a qualsiasi verbo umano, e l'obbedienza all'insegnamento, ai precetti e all'esempio del profeta, che Allah lo benedica e la bengloria, con l'esclusione dalla propria condotta dell'obbedienza a qualsiasi insegnamento, precetto, esempio provenienti da altri che a lui, sallallahu alaihi wasallam. Coloro che sono richiesti di raccogliere la testimonianza hanno il dovere di accertare che il richiedente sappia ciò che il musulmano ha l'obbligo di credere e sappia fare ciò che il musulmano ha l'obbligo di fare. Questo perché, essendo il dominio del cuore una esclusiva di Allah l'Altissimo, l'uomo non ha titolo per accertare la corrispondenza al vero della testimonianza di uno che sa quello che è obbligatorio sapere e sa fare ciò che è obbligatorio fare. E questo in quanto, se uno una cosa la sa, può crederci o non crederci, ma se non la sa, sicuramente non crede. Se uno una cosa sa farla, può farla e non farla, ma se non la sa fare, non la fa. La testimonianza verbale, quindi, se non c'è la conoscenza del fardo Ain e non c'è quantomeno la conoscenza precisa degli aspetti fondamentali del culto, in primo luogo del rito di adorazione, è oggettivamente falsa e come tale non va raccolta. Chi lo fa si rende complice di falsa testimonianza e l'antico proverbio dice «tanto ne va a chi ruba quanto a chi tiene il sacco». Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Darò adesso inizio, Allah volendo, alla spiegazione del rito di adorazione nell'Islam.